E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Il Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata da Davide Paolini. Bene, oggi parleremo di un argomento che credo interessi veramente tutti. Quando magari ci troviamo a casa di fronte a, non so, la bottiglia del latte, oppure a una scatoletta, oppure anche qualcosa che abbiamo surgelato, carne o pesce o altro, e c'è l'interrogativo: lo butto o lo mangio di fronte a una data di scadenza già avvenuta, magari da qualche giorno, oppure che sta per avvenire? Io credo che sia un problema veramente molto importante questo, specialmente in questo momento. Addirittura da un'indagine fatta dalla Coldiretti emerge che 6 italiani su 10 nel 2013 hanno mangiato cibi scaduti. La cosa molto bizzarra è che la stessa indagine fatta precedentemente in Inghilterra aveva dato gli stessi dati. Ora non so se l'ha fatta la stessa agenzia, insomma, comunque credo che il problema esista ed esiste comunque. E allora noi ora cominceremo, diciamo, a chiedere anche a molti esperti di darci delle risposte, ma chi volesse intervenire, come sempre, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo a vedere un po', ma chi è che stabilisce innanzitutto le date di scadenza degli alimenti? E allora abbiamo con noi Adriana Ianieri, che è professore ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale all'Università di Parma, ma non solo, fa parte del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Questo credo che sia il fatto importante. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Ianieri. Bene, io le chiedo appunto, perché ce lo chiediamo un po' tutti, ma chi è che stabilisce le date che ci troviamo poi sugli alimenti, le date di scadenza? Bene. Allora diciamo innanzitutto che, fatti salvi alcuni alimenti dove c'è una data di scadenza, diciamo così, prevista dalla legge, ad esempio il latte fresco pastorizzato oppure il latte a lunga conservazione, chi stabilisce la data di scadenza degli alimenti, anzi diciamo meglio, chi stabilisce il termine minimo di conservazione, cioè quella dicitura che noi vediamo sulle confezioni talvolta da consumare preferibilmente entro, e chi invece stabilisce la dicitura, anche quella abituati ormai come consumatori a notare, da consumarsi entro, che identifichiamo con la data di scadenza, è sempre l'operatore del settore alimentare, come indicato dai regolamenti comunitari, che sarebbe il produttore. Quindi diciamo lo stesso prodotto, due produttori diversi potrebbero pensare a date diverse, può succedere questo? Ma questo non solo può succedere, ma questo succede, e questo succede perché nello stabilire sia un termine minimo di conservazione che una data di scadenza sono molteplici i fattori che vengono tenuti in considerazione. Che so, il tipo di trattamento tecnologico che viene adottato, le materie prime, la lavorazione, non solo, ma nello stabilire anche dei, chiamiamoli, limiti in generale, temporali, l'azienda tiene anche conto di altri fattori, ad esempio anche del trasporto, eventuali sbalzi termici. Quindi diciamo che è un dato alla fine composito, quello che si riassume in un termine minimo di conservazione oppure in una data di scadenza. Ecco, lei ha detto per legge l'unica eccezione riguarda il latte. Per quale motivo questo? Anche le uova. Anche le uova, anche le uova, quindi. Latte e uova. Questi sono gli unici normati, anche perché noi abbiamo parlato, ad esempio, di diversità di processo tecnologico, no? Abbiamo detto prima, può accadere che uno stesso prodotto alimentare abbia delle date di scadenze diverse a secondo che venga dalla ditta X piuttosto che dalla ditta Y. Perché abbiamo citato ad esempio un discorso tecnologico. Bene, l'ottenimento del latte pastorizzato è normato, quindi ci sono delle norme ben precise. Abbiamo detto prima, ci possono essere delle differenze legate alla materia prima utilizzata. In questo caso, se parliamo di latte, è tutto in ogni caso normato. Il che permette di arrivare a stabilire una data per legge. Così non è, e a mio parere non potrebbe neanche essere per gli altri prodotti, perché appunto molteplici sono le differenze che si possono Ecco, io mi trovare. Fermo un secondo al latte con lei, perché diciamo la scadenza del latte intero pastorizzato, sono quello fresco, insomma, che viene definito fresco, sono 3 giorni. E oltre 3 giorni, diciamo che io ho fatto vari esperimenti, anche trasferendo il latte, diciamo, dal cartone, passando le varie tipologie, appunto, con cui viene confezionato, nel vetro. Io mi sono accorto che si può arrivare anche a 8 giorni, senza sentire, diciamo, come posso dire, l'odore in bocca, l'odore spiacevole. Ecco, mi chiedo quando, diciamo che il limite è quando si sente l'odore spiacevole, o proprio semplicemente di giorni, e magari un odore piacevole può nascondere dei pericoli. Ma io direi a monte un'altra cosa che riguarda il latte, ma riguarda qualsiasi altro prodotto alimentare, per quello poi di cui mi occupo io nello specifico, di origine animale. Fondamentale è la modalità di conservazione, ma la modalità di conservazione domestica è, come dire, gli usi e i costumi che noi adottiamo come consumatori. Banalmente, supponiamo di avere il nostro brick di latte, piuttosto che del prosciutto cotto confezionato in vaschetta o dell'insalata russa, ecco. L'abbiamo acquistata, la lasciamo all'esterno del frigorifero, oppure, come talvolta accade, viene messa nel frigorifero, poi viene portata fuori, utilizzata, lasciata fuori per un certo tempo e poi rimessa in frigorifero. Questo è uno sbalzo termico. Certo. Che naturalmente va messo in relazione anche a un altro dato. Supponiamo di trovarci in estate. Magari nel sud Italia, o facciamo centro sud Italia, sbalzo termico significa che io passo da una temperatura che è quella del frigorifero a una temperatura ambiente molto più elevata. Gli alimenti sono dei sistemi dinamici, sono vivi, certo. Non sono statici, e quindi è questo che ci porta anche ad avere un condizionamento. Bene. Che coinvolge noi proprio come consumatori nella gestione domestica, ecco, degli alimenti. Certo. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti scaduti, di termine di minimo di conservazione. Sentiamo un radioascoltatore, Domenico dalla provincia di Latina. Buongiorno Domenico. Buongiorno Paolini, io sono un allevatore, diciamo, di pecore, produco latte. Io sono particolarmente incaulato, Paolini, perché, a parte che l'ascolto sempre, mi fate molto compagnia in queste particolarmente giornate piovose e fredde. Noi qui dalle nostre parti si dice ci stiamo facendo un mazzo tanto, Paolini, e le cronache ci hanno anche raccontato diminuzione degli animali, diminuzione di produzione di latte, per forza, diciamo, noi siamo a prezzi di 30 anni fa, però questo sono un pochino uscito dal seminato. Io quello che volevo dire, a noi le USL ci fanno controlli serrati, diciamo quasi giornalieri, per la nostra produzione, ed io sono particolarmente incaulato perché in Italia non va bene così. Perché quando il mio prodotto va alla trasformazione o a cavoli vari, là ci devono essere i prodotti, là dove invece ci sono corruzioni, perché siamo in Italia, signor Paolini, ed questo è grave. Io ho 58 anni, ho sempre fatto il pastore, e mi dispiace che fra qualche anno i nostri nipoti, i nostri figli dovranno acquistare monnezze che viene fuori. Mi dispiace tantissimo, grazie. Beh, Domenico, mi fa molto piacere che lei come pastore ascolti questa trasmissione, la sua, diciamo, come posso dire, la sua protesta è una protesta probabilmente che riguarda anche molti altri, ma in questo momento, appunto, credo che noi dobbiamo tornare un po' sul seminato. Stiamo parlando di scadenza di prodotti, di termine minimo di conservazione. Sentiamo anche Adriana da Milano, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno Adriana. Buongiorno, e chiedo scusa a tutti per la mia voce raffreddata, ma qui, prego. Qui a Milano, come nel resto d'Italia, sì, il tempo non è bellissimo. Dunque, io parlo a proposito del latte a lunga conservazione, quindi conservato nel frigo, nel brick aperto. Io ho notato che in presenza di altri alimenti il latte si taglia in maniera, diciamo, inspiegabile. Per esempio, in presenza delle cipolline all'agro, cipolline da fare poi così cotte, la presenza di questo elemento nel frigo modifica il latte. Ma non so, scusi, se ho ben capito, lei dice che se mette nel frigo latte con le cipolline questo si caglia, ho capito bene? Sì, esatto. Allora mi viene il dubbio che magari in certi alimenti chimicamente modificano questo elemento dinamico che è il latte. Beh, vabbè, guardi, abbiamo con noi in questa trasmissione diversi esperti. Abbiamo Giorgio Donegani, che è presidente di Food Education Italy e anche docente di merceologia degli alimenti. Buongiorno Donegani. Buongiorno a voi. Ha sentito questa radioascoltatrice che parla appunto del latte mescolato con altri ingredienti che in frigorifero appunto caglia? Lei sì, l'ho sentita. Il fatto di cagliare è sicuramente legato a più componenti. Certo, parlando di latte a lunga conservazione, una risposta brevissima è questa. Proprio la sterilizzazione che subisce, una volta che poi viene aperta la confezione, lo rende particolarmente vulnerabile all'ambiente, perché sostanzialmente, avendo eliminato prima tutti i microbi, quelli che ci arrivano trovano le migliori condizioni per svilupparsi. Il latte poi è un alimento particolarmente recettivo anche rispetto ad alcune sostanze chimiche volatili, per questo prende anche molte volte degli odori e dei sapori se non si tiene ben chiusa la confezione, se non si tengono ben chiuse le confezioni anche degli altri alimenti. Nel caso delle cipolline io sono più portato a pensare che i solfuri che queste cipolline sviluppano e che si diffondono all'interno, se non sono ben confezionate, ben chiuse, no, possano effettivamente raggiungere il latte e al limite incentivare un po' una reazione che però è di altro genere, è proprio legata alla presenza di microbi. Ecco, rimanga con noi. Ora abbiamo con noi anche Roberto Lapira, che è direttore del Fatto Alimentare. Devo dire che questo, diciamo, questo organo fa un eccellente lavoro appunto di informazione e anche molte volte di denuncia. Buongiorno Roberto. Buongiorno. A te volevo chiedere, voi come Fatto Alimentare avete seminato con degli esperti una serie di prodotti che, diciamo, che portavano il termine minimo di conservazione, riportato sugli alimenti, e sono venute fuori alcune discrepanze molto sensibili da prodotto a prodotto, cioè alcuni termini erano troppo lunghi, altri troppo corti. Ho ben capito dalla vostra indagine o è così? Esatto, prima una cosa però, il latte fresco si mantiene 7 giorni, cioè viene confezionato dalla mezzanotte di oggi e scade tra 7 giorni. Questo qui non come tre più come si diceva prima. Comunque il problema è in realtà che c'è una grande confusione tra gli italiani su questa cosa qui. La differenza che diceva prima la professoressa Ranieri tra entro e preferibilmente non è così chiara. La gente quando vede la data dopo un po' dice è scaduto, punto, e butta via. Questo perché in effetti non è proprio così banale, e anche perché a volte poi effettivamente si arriva alla data di scadenza e il prodotto non è un granché. La materia è molto complicata. Una cosa va detta in generale: il rischio concreto di mangiare un prodotto in scadenza o scaduto e avere delle ripercussioni negative sulla salute è poco rilevante, tranne nel caso delle uova forse, negli altri casi al massimo non ha il sapore ottimale. Questo va detto, il latte che caglia non si mangia, non si beve, voglio dire, ma non è che ci sia un granché, è scaduto, cioè è alterato e non si mangia. Noi abbiamo fatto comunque, sul fattoalimentare.it, se uno va su Google e vede data di scadenza, abbiamo fatto ancora l'anno scorso 2-3 grandi tabelle dove abbiamo un po' esaminato i vari prodotti, ricotta, insalata, tutti i prodotti, abbiamo visto qual è la data in genere consigliata e qual è la data invece che si ottimale, perché non è detto che la data indicata sia quella ottimale. Faccio un esempio banale: l'olio extravergine d'oliva va bevuto entro 10-12 mesi, non 18 mesi come scrivono in tanti, per essere chiari. E un altro discorso, il latte fresco, è vero che la legge paradossalmente indica 7 giorni, ma in realtà oggi se un latte fresco di alta qualità viene conservato bene nel frigorifero del supermercato, ma anche nel frigorifero di casa, perché il frigorifero di casa tendenzialmente non è 4 gradi, il 60-70% dei frigoriferi di casa indica una temperatura superiore, 6, 7, 8 gradi. Per cui il latte fresco, se conservato a 4 gradi, si consuma tranquillamente fino a 8-9 giorni, sì, sono senza d'accordo. Problemi. Sono d'accordo, perché io l'ho sperimentato questo e lo bevo sempre. Naturalmente, se il frigorifero di casa, come era quello di mia suocera, misurava 10 gradi, allora non va più bene. Certo. Altri esempi, lo yogurt è un classico, lo yogurt si può consumare anche se è scaduto, non è un problema perché è un prodotto acido, al massimo un po' più acido, il sapore non sarà ottimale, ma non ci sono problemi. La ricotta invece, spesso e volentieri, per motivi che anche io come che tecnologo alimentare faccio fatica a capire, perché siamo abituali consumatori in casa, spesso prima della data di scadenza è un po' acida. Si prende, non si mangia, si dispiace un po'. Quindi tendenzialmente la ricotta una settimana prima della scadenza è una buona norma. Certo. Per le uova invece, come abbiamo fatto questo lavoro qui insieme con la dottoressa Ricci, che credo che debba intervenire. Sì, dopo. Sì, interverrà, sì. Le uova, lei dice, invece di anticipare di una settimana, perché è un prodotto un po' delicato. Poi ci sono altri esempi. I booster, non c'è problema, viene cotto dopo, anche se è scaduto. Il salmone crudo affumicato, beh, in questo caso dicono 8-10 giorni sì. prima, c'è il problema della listeria. Sì. Non posso fare l'elenco perché sarebbe no, lungo, certo, eccetera. Però certo. se uno va sul fatto alimentare, data di scadenza, cercando su Google, bene. Sono queste tabelle molto chiare. Sì, io ce l'ho sotto il naso, guarda, quindi è molto chiara e credo la consiglio anch'io. Abbiamo tanti radioascoltatori che stanno chiamando. Rolando da Prato, buongiorno Rolando. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire un rimedio, insomma, quello siccome avevo la nonna contadina e mia mamma mi ha insegnato che se il latte è scaduto da uno o due giorni, poi i giorni inizia a cagliare, se uno lo fa bollire, si separa la ricotta dal siero e la ricotta si può tranquillamente mangiare. Una volta che è bollita, io l'ho fatta diverse volte e anche sapore buono, ecco. Bene, grazie di questo esempio. Anna dalla provincia di Cuneo, buongiorno Anna. Buongiorno, prego. Viva Radio 24. Grazie. Volevo chiedere, allora, ho sentito dire che il latte è scaduto, il latte anche parzialmente scaduto, lo lavorano di nuovo, lo rimettono e sotto alla confezione ci sono dei pallini e da lì si capisce quante volte l'hanno lavorato. Beh, sentiamo, è vero o no? Sentiamo Roberto Lapira, che su queste cose è molto informato. Roberto, è una bufala di Inter questa, non è assolutamente vero, anzi la questione grave è che nei supermercati due giorni prima della scadenza, in pratica il latte scade martedì, viene ritirato di lunedì, oggi viene ritirato e buttato via perché i consumatori non lo comprano. Questa è una cosa gravissima che noi denunciamo da anni. Il latte nei supermercati non si trova mai il latte che scade il giorno dopo, perché due giorni prima viene ritirato, certo. Chi lo ritira, siccome paga solo il produttore, lo ritira e non può rimetterlo in circolazione, complicatissimo, viene dato in pratica al sì, mangime animale. Poi sentiremo Segre su questo, che lo faremo intervenire. Stefano da Monza, buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Prego. Volevo portare la mia testimonianza riguardo il fatto che io da tantissimi anni mangio in maniera abituale alimenti dopo la scadenza. Cioè, in casa sono un po' il ricettatore. Lei è ancora vivo, vivissimo, sì. Vivissimo, in salute. Quindi personalmente ritengo che siano esageratamente cauti le date Bene. Riportate sulle confezioni. Lo chiediamo oggi al dottor Donegani questo. Sono esagerate le date, Donegani? Ma come diceva anche la Pira, innanzitutto c'è da dire che le date sono a discrezione del produttore. Non esiste, ma non esiste proprio tecnicamente, come dire, perché sono troppe le variabili, un sistema per definire inequivocabilmente una data che sia valida per lo stesso prodotto in ogni condizione in cui viene conservato, in ogni condizione in cui viene prodotto, fabbricato, cioè le varietà dei frigoriferi, la varietà della conservazione domestica impone in linea di massima effettivamente un atteggiamento prudenziale da parte delle industrie, che però a volte è davvero esagerato. Il discorso del latte, il latte fresco effettivamente conservato, ma l'avevamo visto addirittura, il latte fresco viene da una storia in cui per molto tempo, prima che inventassero la microfiltrazione, in effetti durava 4 giorni, era un assurdo, funzionale soltanto a far girare più latte sul mercato possibile in tempi brevi. Ma anche la data di oggi è decisamente prudenziale. Quello che deve essere, come diceva l'ultimo ascoltatore, il criterio fondamentale è quello di riappropriarsi della capacità che peraltro storicamente anche i nostri anziani avevano, di rendersi conto di fronte a un alimento se è buono o no. Certo. In linea di massima questo non è difficile, perché effettivamente se parliamo di un termine minimo di conservazione, questo si vede dal punto di vista così della freschezza, che non richiama nessun tipo di problemi di tipo di sicurezza igienica piuttosto che per la salute. Se pensiamo a una data di scadenza vera, per così dire, quindi consumare entro, i prodotti che sono deperibili, la superano e non sono commestibili, sono evidentemente alterati. Certo. Per cui proprio direi che ha ragione il consumatore. Bene. È una prudenza che esiste, ma forse eccessiva. Eccoci di nuovo a parlare: lo butto o lo mangio di fronte, diciamo, a un prodotto che sulla scatola o sulla bottiglia è scaduto. Bene, devo dire che dopo, vedendo tutti gli SMS che sono arrivati, veramente si potrebbe scrivere un libricino divertente sulle bizzarrie che succedono. Avevo dimenticato un panettone in garage al caldo e al freddo per 2 anni. Per curiosità l'ho assaggiato, era ottimo. Ecco, questo è uno degli SMS, ma un altro: io il gorgonzola lo faccio scadere volontariamente, lo mangio molti ma molti giorni più avanti ed è eccezionale. Bene, io voglio chiedere di fronte a questi due SMS, ma potrei ancora continuare così, un commento ad Antonia Ricci, direttore del Dipartimento per la Sicurezza Alimentare, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e anche membro dei panel rischi biologici dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ha sentito questi due SMS che ho letto? Lei cosa, sì, ne pensa? Ho sentito, mi viene da sorridere, ma anche no, nel senso che insomma, io mi occupo di tutela del consumatore e di malattie a trasmissione alimentare, e quindi alcuni messaggi, devo dire, mi preoccupano seriamente. Allora, un conto è, quando parliamo di alimenti, l'abbiamo già detto, no? L'hanno già detto alcuni dei suoi ospiti, che sulla confezione riportano la dicitura da consumarsi preferibilmente entro. Certo. E questo sarebbe il panettone, ok? In questo caso anch'io sono d'accordo sul fatto che la data di scadenza, lo dice la parola stessa, preferibilmente, quindi è indicativa. Parliamo della pasta, delle fette biscottate, del panettone, di prodotti confezionati e secchi, che quindi non sono particolarmente vulnerabili. Per questi prodotti sono d'accordo sul fatto che si possa anche non rispettare in modo così preciso la data di scadenza. Ma poi invece ci sono tutta una serie di prodotti freschi che avete anche nominato durante la trasmissione, no? Le uova, il latte, il gorgonzola, il salmone affumicato, gli affettati, per i quali io vi assicuro, per l'esperienza che ho, che la data di scadenza è estremamente importante, perché è vero che la data di scadenza la decidono i produttori, ma la decidono proprio sulla base di studi eseguiti in laboratorio che dimostrano per quanto tempo quell'alimento può essere consumato senza rischi per il consumatore. Quindi, oltre la data di scadenza, il consumatore si espone a dei rischi che possono essere più o meno gravi, ovviamente a seconda del tipo di alimento, ma anche a seconda dello stato di salute del consumatore, perché un individuo sano e adulto non avrà nessun problema di salute se consuma un alimento scaduto, ma magari un bambino piccolo, un anziano, una persona con altri problemi di salute può averne di estremamente gravi. Pensiamo ad esempio alle donne incinte, per le quali alcuni alimenti possono essere un reale rischio per il nascituro se sono consumati oltre la data di scadenza. Bene, rimanga con noi perché magari rinterverrà di sicuro. Ad esempio Gianluca da Udine, buongiorno, radioascoltatore. Buongiorno, buongiorno. Prego. Io avevo 2 domande. Alla prima è appena stata risposta, che chiedevo appunto degli alimenti secchi, se era possibile, sì, se si potevano mangiare dopo la data di scadenza, è appena risposto. Ne avrei un'altra però, in sostituzione. Quando io prendo ad esempio un classico offerta, il chilo di formaggio, e lo metto in freezer, no? Poi lo decongelo, a quel punto lì devo mangiarlo subito, posso fare un conto, l'ho tenuto, cioè l'ho preso appena fresco e l'ho congelato, quindi da quando lo scongelo Ecco, è ancora buona la data di scadenza? Bene, poi torneremo anche sui surgelati e i congelati, sicuramente. Però rivolgo questa domanda a Antonia Ricci, visto che è in collegamento, può rispondere lei sul discorso dello scongelamento-congelamento. Certo, allora il congelamento sicuramente allunga la vita del prodotto, no? E quindi finché il prodotto rimane in surgelatore, non per anni, ma per qualche settimana, al massimo 1 o 2 mesi, si mantiene. L'importante è poi scongelarlo nelle condizioni adatte, quindi a temperatura di frigorifero. Gli alimenti non vanno mai scongelati a temperatura ambiente, né tantomeno mettendoli al sole o sul termosifone, come a volte si fa. Quindi scongelati a temperatura di frigorifero e poi vanno consumati molto rapidamente, quindi nel giro di 1 o 2 giorni. Bene, grazie. Abbiamo con noi ora colui che ha inventato Last Minute Market, che è diventato molto famoso per questo, che è un esempio importante nel nostro paese, col professor Segre, che ora diventerà anche famoso col CAB per altri motivi. Ma volevo farlo intervenire per questo. Non ti faccio intervenire per lo yogurt, Andrea, anche se mi è arrivato, anche se mi è arrivato un SMS che è a fagiolo, perché dice: se lo yogurt non sa di formaggio, io lo mangio anche se è scaduto da 2 mesi, mi dice. Poi ancora male. Quindi tanti. Andrea, voglio chiederti questo, cioè tu ormai avete lunga esperienza come Last Minute Market, appunto del recupero dei prodotti che stanno per scadere. Ecco, esatto. Andando oltre, perché so che voi avete sperimentato anche oltre la scadenza, cioè tu dovessi fare così, diciamo, un discorso generale su questo, cosa consigli di fare? Intanto di seguire fedelmente quanto ha appena detto la dottoressa Ricci. Il problema è l'informazione. Noi purtroppo consumatori, quindi metto dentro me stesso, sappiamo poco. Le etichette contengono, sono la carta d'identità dei prodotti, contengono tante informazioni non sempre utili, e quel termine minimo di scadenza, preferibilmente entro, ci confonde ed è effettivamente una delle cause dello spreco, perché quando arriva quel termine neppure si verifica, diciamo, se il prodotto è ancora buono, e lì forse il consiglio è riprendere i nostri sensi, guardare, annusare, assaggiare, il prodotto viene gettato via. Però l'azione deve essere preventiva, perché la sicurezza alimentare non è uno scherzo, e ci sono tipologie di prodotti così diversi per cui non si può neanche generalizzare. E invece il consiglio che si può dare, anzi l'azione che bisognerebbe fare, l'abbiamo prevista nel piano nazionale di prevenzione degli sprechi, che peraltro abbiamo lanciato il 5 febbraio, è quello di informare i consumatori, è quello di andare avanti con l'educazione alimentare, andare avanti, nel senso incominciare davvero, perché siamo confusi, e in tempi di crisi come quelli attuali effettivamente il rischio che si mangi male e che si arrivi a consumare prodotti scaduti, in alcuni casi fanno certamente male, è molto molto alto. Infatti da questa indagine della Coldiretti pare che nell'ultimo anno 6 italiani su 10 abbiano mangiato cibi scaduti. Lo stesso probabilmente è successo in Grecia, perché in Grecia c'è stato anche, per così dire, il governo è intervenuto e ha permesso, mi sembra, che si possono mangiare entro certi limiti dei prodotti scaduti venduti al 50%. Tu cosa ne pensi? No, non è vero, appunto. Intanto sui dati Coldiretti, no? Fatto un osservatorio Waste Watcher, e i nostri sono molto meno allarmanti. Non sì, è perché vero questi qui coincidono stranamente con un'indagine fatta in Inghilterra, sono gli stessi dati, quindi un po' strano. Vabbè. Comunque il nostro panel Waste Watcher fatto con SVG, per fortuna non è così elevato il fenomeno, anche se in ogni caso bisogna stare attenti. Quanto alla Grecia, ha fatto stupore, scandalo questa notizia, ma non è una notizia, nel senso che anche in Italia oltre il termine minimo di conservazione si può consumare, in alcuni casi in realtà si potrebbe ancora vendere il prodotto. E quanto ha fatto la Grecia? Non ha permesso di vendere prodotti dove da noi ci sarebbe scritto, lo dico in italiano, da consumarsi entro, cioè il prodotto fresco, il latte. Non è assolutamente così. E quindi ecco, anche lì è importante che l'informazione, i mezzi di comunicazione poi diano, diciamo, le notizie correttamente, perché il rischio poi di generalizzare, dire oddio i greci sono alla frutta, in effetti sì, ci siamo molto vicini e permettono di consumare beni scaduti, poi dopo in genere un meccanismo molto negativo. Bene, grazie, grazie Andrea Segre. Franca da Bologna, una radioascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere due cose. Una è il fatto delle uova, che avete detto che di non consumarle dopo la data di scadenza. Ma se l'uovo è intero, si apre ed è bello, non va consumato ugualmente? Sentiamo, questa è una domanda. Sentiamo la dottoressa Ricci. Assolutamente no, è la risposta. Il rischio legato alle uova sono le salmonelle, che sono dei batteri patogeni che si trovano appunto nelle uova. La caratteristica di questi batteri, come della maggior parte dei batteri patogeni purtroppo, è che non alterano assolutamente il prodotto in cui si trovano. Quindi in molti casi noi possiamo avere dei prodotti che hanno un odore, un gusto assolutamente normale, ma nei quali c'è stata una proliferazione di batteri pericolosi come le salmonelle. Quindi le uova hanno una conservazione, una vita commerciale di 28 giorni, 4 settimane, che mi sembra un periodo più che sufficiente per consumarle. Oltre questa data l'uovo diventa pericoloso e quindi è opportuno non consumarlo. Aggiungo una cosa: se noi con quelle uova vogliamo fare un alimento a base di uova crude, mi riferisco al tiramisù, alla maionese, cerchiamo di usare uova il più fresche possibili, ad esempio nell'ambito della prima settimana rispetto alla vita commerciale del prodotto, no? Da quando le abbiamo comprate lasciamole massimo una settimana per fare questi prodotti che sono più a rischio. Se invece vogliamo fare una frittata o le uova sode, possiamo utilizzarli anche entro le 4 settimane. Lo mangio o lo butto, il prodotto scaduto che sta per scadere? Bene, stiamo parlando di questo, abbiamo già sentito numerosissimi interventi, ma sentiamo un radioascoltatore, Sergio da Milano. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno, salve. Io partirei, prima cosa, ho sentito l'intervento della dottoressa Rizzi adesso e quindi vorrei fare un intervento sulle uova e poi invece mi dovrebbe lasciare un minutino per fare... No, perché guardi, ne ho tanti, dai, partiamo dalle uova, poi vediamo. Allora, le uova, la domanda secca è, e mi risponderà dopo per radio, se vanno conservate fuori dal frigo o dentro il frigo. Per gli alimenti invece, questa è la domanda, per gli alimenti invece vorrei dire che sono un po' discordante sulle vostre opinioni, nel senso che intanto va fatta una differenza tra fresco e non fresco, perché sul fresco credo che ci sia stato un grosso miglioramento negli impianti di refrigerazione, per cui il frigorifero di casa non è quello di 20 anni fa, e secondo credo che la chimica abbia fatto grossi passi avanti, se non chiamarli avanti, perché il latte 20 anni fa diventava acido anche un giorno prima, adesso si può mangiare anche 3 giorni dopo, latte fresco. Per quanto riguarda gli altri alimenti, io li mangio. Perché il consumarsi preferibilmente che sia fresco oppure che sia invece non fresco, ma anche lo yogurt un mese dopo non è acido, si mangia eccetera. Poi se gli effetti o le condizioni caratteristiche organolettiche possono venire meno, questo ce lo dirà la dottoressa. Bene. Ma lo mangio e non sono mai morto. Guardi, guardi, non abbiamo più la professoressa Ricci, ma abbiamo la professoressa Cortesi, che è professore di industria e ispezione degli alimenti di origine alimentare animale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Allora, io la professoressa Cortesi, ha sentito questo intervento? Certo, è un intervento estremamente complesso che richiede tantissime... No, cerchiamo di essere brevi perché non abbiamo molto tempo. Comunque, a lei la parola sulle uova innanzitutto. Allora, le uova si è preferito a livello comunitario non rendere obbligatoria la refrigerazione delle uova lungo la catena alimentare, perché questo avrebbe aggravato costi e avrebbe potuto produrre danni ulteriori. Quindi si è deciso di dare al massimo 4 settimane di conservabilità, chiedendo però al consumatore di porre poi le uova in refrigeratore in modo tale da evitare problematiche che potrebbero insorgere ove mai queste uova fossero contaminate. Bene, sentiamo, guarda, abbiamo tanti radioascoltatori, sentiamo Paola da Genova ora. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Io vorrei approfittare della presenza degli esperti per togliermi un dubbio che ho spesso e riguarda alimenti di quelli da consumare preferibilmente entro. Per esempio zuppe di verdura in brick o pomodori pelati in scatola. Ci sono forse elementi del contenitore più o meno tossici che possono passare nel cibo se si aspetta oltre la data, dico, non so, alluminio o altro? Professoressa Cortesi. Allora, il problema da consumarsi preferibilmente entro, io non ho potuto assistere agli interventi precedenti, preferibilmente entro è un termine che viene definito dal produttore sulla base delle caratteristiche ottimali che vuole che giungano al consumatore stesso, quindi non è detto che oltre il termine minimo di conservazione il prodotto divenga nocivo. Dipende da quanto tempo oltre il termine minimo di conservazione. Se posso fare un esempio eclatante, noi per il passato a 5 anni di distanza analizzavamo le carni in scatola dell'esercito, perché l'esercito abitualmente consuma quelle prodotte 5 anni prima nelle sue scorte, tanto per darle un termine orientativo, ma oggi gli involucri che vengono utilizzati prevedono una stabilità rispetto al tipo di alimento, se è più acido o meno acido. Crediamo di poter dire che non ci sono problemi sanitari, è solo una perdita di fragranza, di caratteristiche organolettiche, ma certamente non problemi di ordine sanitario, questo lo posso dire serenamente. Beh, io posso dire anch'io di aver mangiato per ben due volte un tonno di 10 anni in scatola da 5 kg e secondo me era il tonno più buono che io abbia mai mangiato in vita mia, quindi devo dire sì, 10 anni sono tanti eppure era ancora perfetto, non è detto che tutti, bisogna vedere come viene conservato ovviamente. Ma ora abbiamo anche, sentiamo anche la voce di chi controlla, sentiamo il capitano Dario Praturlon, comandante del NAS di Roma, per capire quanti prodotti e quante scatole, quanti prodotti vengono scaduti. Ci sono molti prodotti scaduti che vengono ancora messi in vendita, capitano? Buongiorno. Il fenomeno è particolare, nel senso che molto spesso viene sopravvalutato come pericolosità. In realtà, come abbiamo già sentito gli interventi precedenti, il fenomeno va a raccontare una tematica che poi non sempre è pericolosa direttamente per la salute del consumatore, anche se poi l'allarmismo che viene fatto è sul prodotto scaduto, a volte invece è solo oltrepassato il termine minimo di conservazione, per cui non si ha riflessi sulla tutela della salute direttamente. Nel corso ad esempio del 2013 l'attività del NAS su 39.000 controlli nel settore della sicurezza alimentare sono stati riscontrati 13.000 non conformità. Di queste, che riguardano l'etichettatura, in particolare il superamento del termine minimo di conservazione o la data di scadenza oltrepassata, riguardano circa il 3,5% delle non conformità. Quindi un fenomeno piuttosto limitato in ambito nazionale. Quindi lei ritiene, insomma, che ci sia abbastanza rispetto dai negozi e da chi vende, appunto da tutta la catena di vendita, sul discorso dello scaduto oppure da ritirare dalla scaffalatura, mi sembra di capire. Qualche volta sono due facce diverse di questo fenomeno. Da una parte la superficialità, la noncuranza da parte di alcuni rivenditori, che quindi per gestione anche sbagliata non sottolgono i prodotti che sono scaduti da pochi giorni. In altri casi invece ci sono delle condotte fraudolente che sono state evidenziate in attività investigative in passato, che hanno appurato che veniva deliberatamente manomessa la data di scadenza, ecco, o apposta della etichettatura con data di scadenza successiva rispetto a quella originale. Sì, mi ricordo che ci sono stati degli scandali molto grossi, che sono stati molti prodotti sono stati messi in altri involucri, in altre scatolame in questa maniera, quindi veniva riciclato tutto. Questo è un fenomeno leggermente ancora diverso, è quello della ritolettatura del prodotto che è ammuffito o che comunque mostrava da una scadenza successiva o già oltrepassata, veniva deconfezionato, ripulito, tipo parliamo di prodotti caseari o carnei, e poi confezionato in pezzi più piccoli, sottovuoto e venduto con una nuova data di scadenza, e quindi ripulito e offerto al consumatore con una visione sicuramente più idonea rispetto a quella precedente. Bene, grazie capitano. Se vorrei sentire Piero dalla provincia di Roma, 30 secondi Piero. Sì, grazie, buongiorno. Volevo tornare un attimo sul discorso dei surgelati, dove consigliate di scongelarli a temperatura frigo al massimo ambiente. Io mi chiedevo, ma gli hamburger, le patatine fritte, che le istruzioni stesse dicono di cuocere direttamente surgelati, sono delle eccezioni? Come ci dobbiamo comportare? Professoressa Cortesi. Allora, in genere l'alimento surgelato tende ad essere monoporzione e le indicazioni migliori, ma queste riguardano l'aspetto nutrizionale, non tanto l'aspetto sanitario, sono quelle di cuocerle a fuoco vivo da ambo le parti in modo tale da creare una crosta superficiale che eviti poi la fuoriuscita dei nutrienti. Per quanto riguarda le modalità di scongelamento invece di grosse pezzature, è preferibile di medie pezzature, è preferibile uno scongelamento abbastanza rapido che può avvenire anche a temperatura ambiente. Bene, grazie a Maria Luisa Cortesi, grazie, abbiamo finito questo, diciamo, questa puntata abbastanza, anzi direi molto interessante sulle scadenze, lo mangio o lo butto, però vorrei chiudere con una, diciamo, un sms molto interessante, perché dice: tanta gente vive nelle campagne e raccoglie ancora fortunatamente uova di gallina allevate a terra, e quindi chi o che cosa fa la scadenza in questi casi allora? Bene, io credo che questo veramente sia un interrogativo che si pone a molti, perché molti vanno a comprare direttamente in aziende agricole, quindi sicuramente non si sa esattamente bene, diciamo che si dovrebbe vendere in altra maniera, però è evidente che questo tipo di acquisto è sempre più presente, la gente vuole andare alla fonte molte volte a comprare, e il problema è, cari radioascoltatori, è di fidarsi dell'allevatore, al quale chiedere la data, appunto la data di quando sono state messe a vendita queste uova di gallina, ma anche tanti altri prodotti sempre che avvengono in campagna, e lì il rischio sicuramente c'è, però bisogna qualche volta anche correre se si vuole ottenere dei prodotti veramente genuini. Allora io chiudo questa puntata, ringrazio Giorgio De Luca e Anita Panizza in redazione, Peter Bescapè in regia. Buon weekend dal vostro gastronauta.